Il messaggio certamente più importante e significativo rivolto da Dio alla propria creatura fatta a sua immagine e somiglianza rivela che Egli è amore. Ogni altra verità, ogni altro atteggiamento, ogni promessa, ogni opinione di Dio, se non fosse condita dal fatto che Lui è amore, non varrebbe niente. Proprio per questo, il credente urla con orgoglio ai 4:20 meno, e con ragione meno, che è amato da Dio, curato, protetto, benedetto, ma soprattutto testimonia che la presenza di Cristo è sempre presente nella sua vita. Tutto questo è giusto e vero, tuttavia vi sono altri atteggiamenti di Dio che dobbiamo tenere presente, perché una sola verità portata all'estremo crea una eresia e delle convinzioni morali inesistenti. Mi riferisco a quanto dichiarato da Cristo Gesù alle 7 chiese che sono nominate nel libro dell'Apocalisse, a 2 soltanto delle quali esprime solo dei complimenti, mentre alle altre 5 rivolge parole dure. Ci si potrebbe anche disinteressare di queste rimostranze se non fossero indirizzate alle chiese esistenti all'inizio del cristianesimo. Cosa dire, allora, di quelle del XXI secolo? Avrebbe forse parole diverse? Il comportamento delle chiese di oggi è forse migliore delle comunità al tempo degli apostoli? Non credo. Dunque, dobbiamo toglierci dalla mente l'idea romantica e irreale che Cristo accarezza sempre, sopporta sempre. È sempre con noi, ma, con amore, rivolge anche parole dure e severe che dobbiamo accogliere come le altre. Iniziamo con il leggere ciò che ha detto Cristo Gesù alla Chiesa di Sardi. E all'angelo della Chiesa in Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito. Serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te. Tuttavia, hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Esse cammineranno con me in vesti bianche, perché sono degne. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Atti 3:16. Dunque, i credenti che abitavano a Sardi avevano l'apparenza di vivere, ma di fatto erano morti. Tremenda sentenza. Pochi giudizi possono essere paragonati a questo, perché se uno è ladro e viene ripreso come tale, se lo aspetta anche. Se dice una menzogna, uno è pronto anche ad essere smentito. Ma se uno pensa di essere giusto e di possedere la vita eterna, sentendosi dire che si illude, accusa un colpo fatale alla sua reputazione e convinzione. Si rimane male quando una cosa negativa, anche piccola, arriva all'improvviso, e peggio quando si riceve un grosso dolore, al quale da tempo si è in attesa. Ma la sorpresa ha un effetto particolare. Ti fa andare alle stelle se è bella, come ti fa andare nelle stalle se è brutta. A sentirsi dire che hai la reputazione di vivere mentre in realtà sei morto, è da accasciarsi al suolo con dolori lancinanti allo stomaco, con delle contrazioni nervose. Mi sono illuso, povera me, ma noi uomini abbiamo sempre una carta vincente nascosta nella manica, vero? Sentendo dire che noi possiamo essere degli illusi, pensiamo subito che questo non ci riguarda, che chi parla così forse si è sbagliato. Infatti il peccato di molti credenti in Cristo non sta tanto nel commettere azioni apertamente condannabili, ma nel ritenere che ciò che sta scritto nella parola di Dio non sia rivolto a loro. Quando leggo il giudizio di incoerenza formulato da Cristo in relazione alla Chiesa di Sardi, subito non penso alla Chiesa alla quale appartengo e, se anche fosse rivolto alla Chiesa della quale faccio parte, non penso minimamente di essere io uno di quelli. Forse ho anche tutte le ragioni per ritenermi un bravo credente e anche sopra la media, ma se il giudizio di incoerenza non mi sfiora neppure nella mente, allora io non ho alcuna possibilità di migliorare e sono destinato a rimanere sempre quello che sono. Come disse qualcuno, essere umani significa cambiare, essere perfetti significa cambiare spesso. Certo, A nessuno piace cambiare perché a volte significa giudicare le azioni di prima sbagliate e quindi che noi abbiamo sbagliato, ma se crediamo fortemente che manchiamo tutti in molti modi e in molte maniere, GC 3.2, migliorarsi è segno di grande umanità e spiritualità. Perciò, anche se mi ritengo un uomo coerente avente la vita di Dio in me, devo per il mio bene pensare che il giudizio di incoerenza mi riguardi, e se mi riguarda cercherò quegli elementi che mi possono rivelare la mia illusione. Ho solo da guadagnare e nulla da perdere. Quali sono questi elementi che possono rivelare la mia incoerenza? Non è certamente la mia opinione o quella degli altri, anche perché tutti mutiamo parere, e se abbiamo vissuto abbastanza, abbiamo anche cambiato certe idee in merito a ciò che è bene e ciò che è male, per cui è indispensabile trovare una morale che sia stabile. E l'unica morale stabile non solo nel corso della mia vita, non solo nel corso dei secoli, ma una morale che dura da millenni e che durerà ancora fino alla fine del mondo, è quella stabilita nei libri di Dio, cioè la Bibbia. Nel corso dei millenni gli uomini l'hanno disprezzata, cercando di screditarla, ma essa è ancora valida oggi come dal principio della creazione. Perciò, se io mi ritengo uno degli ascoltatori ai quali sono rivolti gli ordini di Dio, confronterò il mio cammino con questi ordini. Quando Cristo Gesù dice «Non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio», in cosa mi devo interrogare? Forse non ho fatto elemosina? Forse non vado regolarmente in chiesa? Forse non festeggio il Natale o la Pasqua? Molto probabilmente no, perché nella cultura italiana ci sono molti insegnamenti al riguardo. Cosa può trovare di mancante Gesù Cristo in me da dover correggere? Prova a calare questi interrogativi nella tua vita religiosa e precisamente nel tuo rapporto personale con Dio come la preghiera. La parola di Dio, cioè quella che ha autorità di giudicarti, dice che vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, un terametro 2.5. Prova ad accettare questa esclusività. Vi è un solo Dio, vero, e questo lo accetti. Vi è anche però un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Questo lo accetti? E se lo accetti, perché preghi Maria o i santi quando ti rivolgi in preghiera? Perché ti rivolgi a Dio chiedendo l'intercessione di altri esseri umani e non soltanto Gesù Cristo? Non sai che un solo mediatore vuol dire che non ce ne sono altri? La Chiesa alla quale appartieni si rivolge in preghiera solo a Dio tramite Gesù Cristo. Se così non è, le parole di Cristo, rivolte alla Chiesa di Sardi, non sono forse parole rivolte a te. E se rispondi che è la Chiesa a farlo, ma tu sei fedele nel rivolgerti solo a Cristo, perché continui allora a stare con loro e non cerchi una Chiesa nella quale si prega solo Dio e Gesù suo Figlio? Non a caso Gesù ha detto alla Chiesa dei Sardi, «Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito. Serbalo e ravvediti». Hai notato? Gesù ha detto di serbare ciò che hai udito e ricevuto da Lui. Ha detto pure di serbarlo, cioè di tenerne conto e metterlo da parte, aggiungendo poi un ordine che fa il caso tuo. Se stai sbagliando, ravvediti. Di solito il credente vede il ravvedimento come un invito, indirizzato soltanto agli increduli e ai pagani sperduti nell'Africa, ma vi è pure un ravvedimento per i credenti, cioè un rendersi conto che si sbaglia e di conseguenza si necessita di un cambiamento. Quindi, se nelle preghiere ti rivolgi a degli esseri umani, il tuo ravvedimento starà nel non pregare. Mai più nessuno se non Dio o Gesù Cristo. Chiaro, no? Eppure viviamo in un paese che, pur definendosi cristiano, è abitato da una grandissima quantità di persone che restano sorde a ciò che Cristo dice alle chiese. Se Cristo avesse parlato ad un club o ad una nazione che non ha mai sentito parlare di Cristo, pazienza. Ma poiché Gesù ha parlato alle chiese che dicono di seguire Cristo, come mai sono sorde al suo insegnamento? Gesù sapeva che le cose sarebbero andate così, e per questo aggiunge, «Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te». Sono parole severe, alle quali è saggio dare ascolto. Nel dire che io verrò su di te come un ladro, Gesù ha fatto capire che la tua disfatta spirituale verrà all'improvviso se non cambi comportamento. E, se lo ha detto lui, stai sicuro che avverrà. Ecco dunque, la fine di chi non ascolta le parole di Cristo è un illuso. Chi continua a rivolgersi in preghiera ai santi cattolici romani e a Maria? Secondo Dio è un povero illuso, che un giorno rimarrà deluso. Rimarrà deluso perché egli seguirà le sorti di altri tanti credenti che pensavano di fare bene e invece sentirà dire da parte di Gesù: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Molti mi diranno in quel giorno: «Signore, Signore, non abbiamo a noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti?» E allora dichiarerò loro: «Io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità». Imeti 7.21-23. Non ci è nulla da aggiungere a queste parole, mentre alle chiese e ai singoli credenti non rimane che accettare la sentenza di Gesù per loro, perché, se non sono per loro, tanto meglio; se lo sono, è un estremo atto di saggezza cambiare modi di pregare. Se Gesù non te lo avesse detto, pazienza, ma ora che lo sai non hai alternative. Ci è in ballo la vita eterna o la punizione eterna. Scegli tu. Una seconda con Nuovo Testamento e stazione di Cristo, rivolta alle comunità, è indirizzata alla Chiesa di Pergamo. E all'angelo della Chiesa in Pergamo scrivi: «Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. Ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balac a porre un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Niporaiti, la qualcosa io odio. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada». App 2.1.2.16. In questa rimostranza, Cristo inizia col dire di avere una spada affilata a due tagli. Non è a caso che parla così, perché in seguito la userà. La spada della quale parla Gesù era uno strumento di difesa e offesa molto comune ai suoi tempi. Non era come un coltello che taglia solo da una parte, ma aveva due parti taglienti, per cui da qualsiasi parte toccasse qualcosa, comunque tagliava. Così la parola di Cristo, o la parola di Dio, è considerata una spada a doppio taglio, come leggiamo nella lettera agli Ebrei. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Ebi 4.12. Dunque la parola di Dio è in grado penetrare nell'intimo dell'uomo per fargli capire i segreti del suo cuore, è capace di giudicare ciò che veramente pensa. Osea 4.13. Infatti la parola di Dio è in grado di condurre un'anima alla salvezza, come è in grado di giudicarlo degno della perdizione, perché chi crede in Cristo realizza la vera riconciliazione con Dio, chi invece non crede, la sua incredulità viene giudicata da ciò che ha udito della parola di Dio. Così continua il suo cammino verso la perdizione. Cristo si presenta alle chiese come colui che può fare tanto bene, cioè come pietra angolare, come colui che può distruggere ogni opera che non procede da Dio, e cioè come una pietra d'inciampo. Chi non ha compreso questi due aspetti di Cristo è ancora lontano dall'aver capito il vero Vangelo. Contro la chiesa di Pergamo Cristo aveva alcune cose. Anche in questo caso corre subito vedere da che parte siamo, se ciò che leggo è rivolto a me e alla chiesa alla quale appartengo, oppure se non mi riguarda. Rileggiamo dunque la contestazione. Tu hai alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balac a porre un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti la qualcosa io odio. Un discorso del genere non è poi così immediatamente chiaro, perché non è che tutti conosciamo chi sono e cosa abbiano fatto Balaam e Balak, né chi sono i Nicolaiti e come sia la loro dottrina. Balaam era un indovino vissuto al tempo di Mosè, e che aveva annoverato tra i suoi dei anche il Dio di Israele. Egli per denaro e per onori era disposto anche a maledire chi Dio avesse benedetto e, per questo, resta il tipo del falso profeta. Balak era il re di Moab, che indusse il falso profeta Balaam a maledire il popolo di Israele. I Nicolaiti erano seguaci di dottrine che insegnavano ai cristiani che in forza del principio della libertà potevano commettere atti immorali, come i pagani. Dunque, Balaam, Balak e i Nicolaiti erano persone il cui comportamento era fortemente scorretto. Non sembra che insegnassero propriamente delle dottrine, eppure Gesù Cristo definisce ugualmente dottrine il loro modo di comportarsi. Perché? Perché la dottrina è sì quell'insegnamento in merito ad un determinato comportamento, ma se anche una persona non dicesse neppure una parola, parimenti, il suo comportamento risulterebbe più loquace di mille discorsi, rendendo palese a quale dottrina essa ha aderito. Se io prego Maria, è evidente a quale dottrina ho aderito, come se mi prostro e prego Allah. La Chiesa di Pergamo aveva questa colpa, lasciava che alcuni pensassero quello che volevano e che, mediante il loro comportamento, inducessero altri ad allontanarsi dalla verità. A prima vista sembra una cosa assurda che in una Chiesa ci sia questo atteggiamento. Eppure, quanti sono coloro che in nome della libertà ritengono corretti certi comportamenti? Non è in nome della libertà che i giovani hanno relazioni sessuali prima del matrimonio? Non è in nome della libertà che ci si sposa con chi non è nato di nuovo e diventato figlio di Dio? Non è in nome della libertà che alcuni partecipano alla messa cattolica romana e anche al culto evangelico? Non è in nome della libertà che si approvano pratiche omosessuali? Ecco perché non dobbiamo fare della libertà una occasione per peccare. Com è la Chiesa alla quale appartieni? Siamo di nuovo al punto di prima. Cristo pronuncia un severo ammonimento: «Travvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada». Ancora una volta Cristo parla di ravvedimento, cioè un mutamento di pensiero e di atteggiamento nei confronti del male. Ma sono parole che sembrano cadere nel vuoto, perché essere convinti di comportarsi in modo sbagliato non è una capacità umana, ma un dono di Dio. Perché allora tanta insistenza da parte di Dio nell'invitare l'uomo a convertirsi? Perché se è vero che la convinzione di peccato è opera dello Spirito Santo, è altresì vero che all'uomo spetta il compito di ubbidire a questa voce o impulso, per cui all'uomo è chiesto un atto di onestà intellettuale nell'accettare di essere colpevole perché non ubbidisce in Cristo. GV 16.9. A proposito di onestà intellettuale, ho presente quell'uomo che avevo occasione di incontrare nelle mie passeggiate mattutine e al quale ho parlato molte volte di Gesù. Ho avuto occasione di seguire il suo travaglio sul lavoro e il suo relativo licenziamento. Molto triste. E abbattuto mi chiedeva se potevo aiutarlo a trovare un lavoro, ma io rispondevo che solo Dio poteva aiutarlo. E così si parlava ancora di più di Gesù. Un giorno, mi confidò poi in seguito meno, era in macchina che leggeva il Vangelo che gli avevo dato e, in un momento di grande sconforto, pregò: «Dio, se ci sei, fai che una certa ditta nella quale vorrei andare a lavorare mi assuma». Non avevo finito di parlare, continuava a confidarmi, che squillò il mio telefonino, ed era proprio il datore di lavoro di quella ditta che chiedeva se ero disposto ad essere assunto. Nel parlarmi, quell'uomo rideva incredulo, ma ancora oggi io soffro perché ha avuto una netta e indiscutibile dimostrazione, in merito alla presenza di Dio e del suo intervento, che tuttavia lui prende alla leggera. Almeno avesse onestamente ammesso la non casualità del fatto, ma se fosse stato intellettualmente onesto ora si sarebbe convertito. Così è della Chiesa di Pergamo e di tutte quelle che tollerano il peccato in nome della libertà e del sincretismo. Se non vi è ravvedimento, Cristo Gesù userà la sua spada a due tagli per dividere il male dal bene. Forse certe chiese non esistono più proprio per questo. Forse altre chiese hanno attualmente all'interno delle divisioni proprio per questo. Che Dio ci dia di non rinnegare la fede. Una terza rimostranza di Gesù Cristo alle comunità cristiane è quella rivolta alla chiesa di Tiatiri, una chiesa piena di opere buone, ma che mancava in un punto importante, nella dottrina. Così leggiamo nel capitolo 2 del libro dell'Apocalisse: «E all'angelo della chiesa in Tiatiri scrivi: Queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza. E so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico, non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente a ciò che avete finché io venga. App 2.1825. Ogni chiesa è conosciuta perfettamente da Cristo, e questo potrebbe anche renderla felice, perché sa che Dio vede il suo zelo, l'amore, la costanza e ogni altra opera buona. Però occorre anche tenere presente che è da Dio conosciuta anche per ciò che non fa. E, nel caso della chiesa di Tiatiri, si trattava del permettere ad una donna di insegnare una dottrina sbagliata. Già la chiesa di Pergamo Cristo aveva denunciato questa mancanza, per cui è bene prendere sul serio questo rimprovero, dato che non è in questione un errore di poco conto, ma una dottrina. All'inizio del XXI secolo si è poco inclinati a parlare di dottrine, perché si è visto quanto esse dividano. Tuttavia, da un attento esame, è impressionante notare quante volte Gesù e gli Apostoli parlino di dottrine. Diamo un veloce sguardo alla Scrittura. Quando i giudei si meravigliavano dei discorsi di Gesù e dicevano «Come mai costui sa di lettere?» senza aver fatto studi, Gesù rispose loro e disse «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio. Oppure se io parlo da me stesso». Di qua stardi e 15.7.15. Dunque, Gesù quando parlava non cercava il colloquio come è di moda oggi. Meno né cercava di conciliare un discorso, e neppure dava solo degli insegnamenti moralistici, al fine di rendere più buone le persone, spesso meno come in questo caso meno. Parlava di dottrine, tra l'altro che provenivano da Dio. Infatti, al termine dei suoi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, Matt 7:28, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità, e non come gli scribi, Matt 1:22. Un'altra volta Gesù rispose ai giudei, «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato», Gv 7:16, e per questo ancora incredulo, il sommo sacerdote. Interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina, Gv 18:19. In seguito, il sommo sacerdote, assieme al Sinedrio, convocarono gli apostoli e con tono minaccioso dissero, «Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». A 5:28. Quando poi l'apostolo Paolo predicò ad Atene, gli ateniesi lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo «Potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi?» At 17:19. Dottrina, Questa è la parola che scorre in tutto il Nuovo Testamento, per cui, quando Paolo scriveva alle chiese, diceva: «Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro», RM 16:17. Scrivendo al suo collaboratore Timoteo, Paolo gli ordina di considerare ogni cibo puro, perché, come scrisse, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina, che hai seguito da vicino. Deuteronomio 4:6. E a coloro che avevano dei padroni diceva: tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù reputino i loro padroni degni di ogni onore, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Deuteronomio 6:1. E in merito alle cose future Paolo avvertiva: verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. Deuteronomio 4:3. Da notare, non sopporteranno la sana dottrina, il che significa che se ora religiosi e increduli non dicono nulla, è perché stanno solamente sopportando. Perché se nel XXI secolo si ha un atteggiamento diverso, dobbiamo prendere sul serio l'aspetto dottrinale della fede cristiana, perché i primi credenti in Cristo avevano parole molto severe, perché aveva un cammino diverso. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà è gonfio, e non conosce nulla ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno da Deuteronomio 6:35. La dottrina di Cristo, che è secondo pietà, non è altro se non il messaggio del Vangelo che predica la salvezza per fede mediante un piano di grazia, cioè senza meriti, né buone opere e senza alcun atto religioso come il battesimo. Le persone che non si attengono a questo messaggio e di conseguenza a questa dottrina vengono definiti uomini corrotti nella mente e privi di verità, dai quali il credente è chiamato a separarsi. Come può un cristiano accettare le dottrine del cattolicesimo sulla grazia unita alle buone opere? Non sono queste dottrine di uomini. MR 7:7. Come può un cattolico romano che sostiene di essere un cristiano accettare una religione il cui insegnamento dichiara che l'opera di Cristo non è sufficiente alla salvezza? Così si esprime il catechismo del cattolicesimo. I meriti delle opere buone devono essere attribuiti innanzitutto alla grazia di Dio, poi al fedele. 2008. Non è questo una cosa spregevole agli occhi di Dio? Non sta forse scritto che è bene per l'uomo che il cuore sia reso saldo dalla grazia? Eb 13:9. L'uomo non ha nessun merito di nessun genere, perché il male che compie è sempre opera sua, mentre il bene è sempre il frutto dello Spirito Santo. Una chiesa che insegna e tollera una spiegazione diversa commette fornicazione e adulterio, perché certe verità spirituali si uniscono illegalmente all'errore, e la conseguenza è, come sta scritto, chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. 2 Giovanni 1:9. E Gesù su questo non ha mezzi termini. Ognuno porterà le conseguenze dei suoi errori. Nella sua severità, Gesù dice tuttavia una buona parola ai suoi fedeli, che non seguono dottrine sbagliate. Continuare con fermezza a camminare nella verità e a insegnare solo dottrine basate sulla grazia. In una società dove tutto è relativo, è molto faticoso insistere che l'opera di Cristo sia l'unico e insostituibile mezzo per avvicinarci al Dio trino. Ma le parole di Cristo sono sufficienti. Non ti impongo altro peso. Che questa sia la forza di quanti seguono Gesù. Finché egli non torni per rapire la sua chiesa e regnare sulla terra 1000 anni, e noi con lui. Una quarta rimostranza di Gesù alle comunità di oggi è rivolta alla chiesa di Efeso. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia è questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Apese 2.17. Non a tutte le chiese Gesù ha fatto tanti complimenti, e questo, per quella di Efeso, dovrebbe ed è motivo di incoraggiamento e di un sano vanto spirituale. Una chiesa che porta avanti con fatica e costanza la verità, che non sopporta i malvagi, che ha vagliato coloro che erano mandati tra loro per svolgere un servizio cristiano e che per amore del regno di Dio si è affaticata, senza stancarsi, è un modello da imitare. Fossero così tutte le chiese di oggi. Purtroppo molti credenti si sono adagiati nelle loro comodità, danno precedenza ai loro interessi anziché a quelli di Cristo o dei fratelli in fede, hanno soldi per cose superflue quando opere missionarie e sociali invocano a Dio aiuto finanziario. Chi è colui che sente il peso per un'opera che è tesa a far conoscere il messaggio di Cristo qua a Nuovo Testamento o, e non di più, per le proprie necessità quotidiane? Quanti sono i credenti che hanno a cuore almeno una, non di più, persona anziana bisognosa di affetto e di attenzioni? Quanti hanno il sano e grave obiettivo di portare alla conversione nell'arco di un anno almeno uno, magari di più, dei peccatori perduti? Le chiese di oggi hanno bisogno di guardare alla chiesa di Efeso, impegnata nel campo di Dio e nei confronti del prossimo. Eppure anche ad una chiesa modello come quella di Efeso Gesù indirizza una rimostranza veramente inaspettata dopo tutte le virtù che ha mostrato, la quale inoltre è in grado di mettere in crisi ogni credente impegnato nell'opera di Dio. Hai lasciato il tuo primo amore. Incredibile! Mancare d'amore nonostante lo zelo e l'impegno dimostrato sembra senza senso, eppure è possibile anche questo. Ne sono stati un esempio i discepoli Giacomo e Giovanni, i quali, avendo dei samaritani negato accoglienza a Gesù che passava da quelle parti, chiesero al loro maestro se potevano pregare che scendesse del fuoco dal cielo per distruggerli, come fece Elia a suo tempo. Ma Gesù rispose loro duramente, dicendo: «Voi non sapete di quale spirito siete». Giacomo e Giovanni sbagliarono almeno per due motivi. Innanzitutto, è sbagliato fare una cosa solo perché l'ha fatta un altro. Anche se sembra un fatto di cronaca assurdo, ho letto di una donna che aveva detto che avrebbe camminato sull'acqua come fecero Gesù e l'apostolo Pietro, ma al momento della prova annegò. Del resto anche nella Bibbia leggiamo di alcuni esorcisti giudei itineranti, i quali tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su alcuni uomini posseduti dagli spiriti maligni, come faceva l'apostolo Paolo. In seguito però lo spirito maligno che dominava uno degli uomini in questione si avventò su di loro e, sopraffattili, fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa, nudi e feriti. Atti 19. La seconda ragione dell'errore dei discepoli stava nel fatto che avrebbero agito non per amore, ma per ripì. Non avete accolto il maestro? Bene, ora ve la facciamo pagare. Questi episodi dimostrano che non sempre è possibile comprendere se siamo motivati dall'amore o da un altro spirito non buono, a meno che non pensiamo di essere migliori degli apostoli. Perciò è comprensibile la rimostranza di Gesù rivolta ad una chiesa modello come quella di Efeso. Forse anche tu fai opere nel regno di Dio, ma con quale scopo? Infatti, di opere ce ne sono di tre tipi. Quelle per ottenere la salvezza, quelle per paura di un giudizio divino, quelle per riconoscenza a Dio. È facile individuare che le opere per ottenere un favore di Dio o per paura di un giudizio non sono fatte per amore. Eppure molte chiese sono impegnate in tante opere senza rendersi conto che, nonostante tutto, sono riprese severamente da Cristo Gesù. Varrà qualcosa questa osservazione? La parola di Dio porterà a ravvedimento le persone e le chiese che non agiscono con quella riconoscenza scaturita dalla coscienza di aver ricevuto il perdono dei loro peccati? Dove sono i credenti che offrono a Dio in sacrificio il loro corpo per aver compreso l'amore di Cristo? RM 12.1. Per due volte Gesù ordina alla Chiesa di Efeso di ravvedersi, cioè di vedersi come Dio la vede. A nessuno piace essere sotto i riflettori di Dio perché va letteralmente in frantumi la buona opinione che abbiamo di noi stessi, o, come dicono gli psicologi, a nessuno piace vedere le proprie ombre. Ma del resto non vi è altra strada per migliorare. Come è stato detto, essere umani significa cambiare. Essere perfetti significa cambiare spesso. Ma cambiare non sarebbe poi così tanto difficile se non fosse che occorre riconoscere che si sta sbagliando. E questo è il vero punto del problema. L'orgoglio che abita nella nostra natura umana corrotta fa tutto il possibile per non arrivare a questa drammatica conclusione e, con mille raggiri di parole, ci diamo delle ragioni per non ammettere che stiamo sbagliando. L'intelligenza ricevuta da Dio è, sì, un suo dono. E possiamo definirla anche una luce divina. Ma il nostro modo di usarla non essere sempre in sintonia con la rivelazione di Dio. Il ladro che usa la sua intelligenza per compiere un furto non sta facendo altro che usare la stessa intelligenza da me impiegata per cercare di fare del bene al prossimo. Così, per ravvedersi, è necessaria una onestà intellettuale poco comune, non perché non sia possibile, ma perché siamo ormai abituati a non dire la verità ad ogni piè sospinto, dato che ci siamo conformati al presente secolo malvagio. Notavo ultimamente questo con i regali. Quando ero un ragazzino, i regali si facevano di nascosto e chi vi riceveva li apriva in seguito, quando era solo. Oggi, davanti ad un folto pubblico, tutti vedono il regalo e lo si mostra subito agli astanti. Sembra poca cosa, ma Gesù non ha sempre parlato di agire in segreto? Abbiamo forse lasciato il primo amore? Quell'amore che adegua il proprio comportamento agli insegnamenti di Gesù a costo di essere anacronistici? Quell'amore che segue le orme di Cristo anche dove vi è disprezzo e calunnia? Si dice nell'ambito umano che il primo amore non si scorda mai, ma non ci si dimentica neppure cosa si era disposti a fare. Ecco cosa contesta Gesù a me, a te e alle chiese: un consacrazione com'era all'inizio della vita cristiana, sincera, spontanea, totale, nulla di meno. Risultato: si mangeranno i frutti dell'albero della vita, che è in mezzo al giardino di Dio, il che vuol dire che avremo accesso a tutto ciò che appartiene a Dio. Una ragione in più per ascoltare e ubbidire a Cristo. Una QUI Nuovo Testamento a rimostranza di Gesù, rivolta alle chiese, è quella indirizzata alla chiesa di Laodicea. E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Lo conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca, poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. App 3.1420. Per la chiesa di Laodicea Gesù non ha neppure una parola buona o un apprezzamento, ma solo una serie di rimproveri e di consigli, per modo di dire, tesi a migliorarne la situazione spirituale. Cosa non andava nella chiesa di Laodicea? Commetteva un errore comune a molti. Un errore tra i più difficili da individuare e da stanare. La chiesa si era convinta di essere a posto, di non aver bisogno di nulla, perché già possedeva ciò che la faceva ricca. A prima vista possiamo inorridire di fronte a un tale atteggiamento, perché il nostro moralismo si ribella di fronte all'autosufficienza. Ma di fatto, le cose molte volte stanno così. Se la rimostranza di Gesù fosse rivolta ad una dottrina sbagliata o a un cammino palesemente fuori dalla volontà di Dio, si potrebbero anche avere delle orecchie per udire, ma poiché la Chiesa aveva il suo tram tram e lasciava stare gli altri, poiché da molto tempo aveva assunto una espressione religiosa che in fondo non disturbava la vita dei credenti più di tanto, che cosa doveva ascoltare? Già sono arrivato a trovare il mio equilibrio. La strada che percorro soddisfa il mio spirito pacifico. Che riprensione posso mai udire a mio riguardo? Se ora sono ricco, cioè autosufficiente, è perché ho fatto molta fatica. Che cosa devo mai fare per avere altro? Non posso godere in pace quello che già possiedo? Io vado d'accordo con tutti. Perché andare a cercarmi dei problemi? Perché devo permettere a Gesù di intromettersi nel mio quieto vivere? Com'è difficile, quando si è arrivati ad una temperatura spirituale idonea, doverne uscire fuori? Piuttosto che rimanere in un clima ottimale, Cristo mi chiede di essere fervente, di darmi da fare. Al punto che preferisce anche che sia freddo, insensibile, ma non tiepido. E il tiepido gli è tanto disgustoso che piuttosto lo vomita fuori dalla sua bocca. Se per caso non lo comprendessimo, se per caso avessimo dei dubbi sul disprezzo di Dio in merito al credente insipido o tiepido, Cristo Gesù usa proprio una metafora poco simpatica: vomitare. Vomita colui che ha inghiottito un cibo e il suo corpo non lo riceve. Per cui, stando alla metafora, Cristo rigetta colui che prima aveva accettato, se in seguito vive con uno spirito sempre moderato. Qualcuno potrebbe pensare subito che un credente salvato perde in seguito la salvezza, ma dobbiamo sempre ricordare che la parola di Dio parla molto di compiti e chiamate, per cui chi non vive la sua chiamata con lo spirito adeguato viene rifiutato, annullando la sua vocazione. Questo è quello che succede non solo a singoli credenti, ma anche a certe comunità. Occorre premettere che non siamo chiamati a far giudizi moralistici, ma è opportuno anche accettare che a volte certe testimonianze cristiane terminano perché non sono né fredde né calde o ferventi. I credenti si sono adagiati nel loro modo di vivere la vita cristiana. Cantano beati i loro inni, sono dispiaciuti degli increduli che corrono verso la perdizione eterna. Ma questo non li tocca più di tanto, al punto che continuano la loro espressione religiosa in modo pacato. Non diventano freddi perché non si sentono a loro agio, ma neppure ferventi o caldi, perché questo li smuoverebbe dal loro tepore e comporterebbe un prezzo da pagare. Terribile situazione, che purtroppo non viene colta perché la Chiesa dice a se stessa di non aver bisogno di cambiare, essendo ricca e non avendo bisogno di aggiungere nulla a ciò che già possiede. Spesso questa situazione arriva quando in una comunità non vi è una generazione fervente in grado di sostituire quella precedente che con tanta fatica ha seminato la parola di Dio, oppure quando tra la generazione giovanile e quella matura non vi è intesa o collaborazione. Quando si dice che i giovani sono la Chiesa di domani è un gravissimo errore, perché i giovani devono e sono la Chiesa di oggi. Devono avere parte attiva e armonia con quella che già si esprime con le persone mature e i conduttori. Diversamente, è stato detto che quando i gamberi vecchi vanno indietro, i giovani non vanno avanti. Questa è un'altra riprensione che Gesù rivolge alle chiese. Chi ascolterà la sua voce? Proprio perché la chiesa di Laodicea pensava di essere quello che non era e di avere ciò che non possedeva, Gesù gli rivolge l'invito di prendere da lui ciò che occorreva. Gesù parla di oro, di vesti e di collirio, e qualsiasi cosa alla quale si riferisca, la Chiesa doveva e deve capire che solo Cristo è colui che può saziare ogni necessità, sia spirituale sia materiale. Purtroppo, questo aspetto della vita cristiana è stato completamente dimenticato. Con il passare del tempo, i credenti hanno sostituito Cristo con delle persone umane e la sua volontà con delle norme liturgiche. Così, anziché rivolgersi direttamente a Gesù, persone religiose fanno le sue veci e incontri religiosi sostituiscono la volontà di Dio. Nel cattolicesimo abbiamo il Papa che è il vicario di Cristo, nel protestantesimo abbiamo pastori e conduttori che molto volentieri impongono le loro regole morali e chi ha posto fede in Cristo non riesce più a distinguere la volontà di Dio da quella umana. Anche se sono passati 2000 anni, le parole di Cristo rivolte ai religiosi del suo tempo sono sempre più attuali. Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. MR 7.68. Più passa il tempo, più mi rendo conto di quanto potere possegga la tradizione degli uomini. Nel presentare il Vangelo alle persone, noto come questo non venga, e a volte non possa venire recepito, perché le persone moralmente si sentono ricche e non bisognose di salvezza. Con la loro tiepidezza religiosa continuano ad avere quel tanto di religioso che li rende soddisfatte, e l'aspetto della salvezza è scarsamente considerato per molteplici ragioni, la prima delle quali è certamente l'appagamento di essere in regola davanti a Dio. Ecco perché Gesù dice alle chiese, io sto alla porta e picchio. Generalmente questa azione di Cristo viene vista in relazione agli increduli, ma Gesù lo ha detto alle chiese, ai credenti che frequentano le chiese, perché vuole entrare nelle loro vite come padrone e cenare, cioè avere comunione con loro. Se ti professi un credente, considera se Gesù è veramente per te il tuo maestro e il tuo amico, se è per te l'unica verità, se è l'unico al quale rendi il tuo culto, le tue preghiere. Diversamente, come ha detto Gesù, abbi zelo e ravvediti, non ci. È miglior modo per glorificare Dio e onorare l'opera di Cristo. Se Gesù è stato severo con quelle chiese che non si comportavano secondo la volontà di Dio, a quelle che avevano un comportamento giusto non ha tolto ciò che meritavano. Eb 6.10, indirizzando parole che rincuorano tutti coloro che, nonostante tutto, con perseveranza sono la luce di Dio in questo mondo di tenebre. La chiesa di Smirne ne è un esempio. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. 2.8.11. Per me, la consolazione più grande in questo discorso di Gesù è «Io conosco, sì, io e te». Abbiamo bisogno di sapere di essere conosciuti per quello che siamo per due principali ragioni. Per avere la consapevolezza di essere compresi e per poter ricevere l'adeguato premio. Per essere compresi, perché troppe volte sappiamo di essere giudicati non con giustizia e nonostante le nostre ragioni, sembra che chi vuole colpire, colpisca in tutti i modi. E questo è molto triste. Poi, perché solo Dio conosce i nostri cuori, i nostri moventi, le nostre sofferenze e il nostro desiderio di fare del bene al prossimo e di essere alla presenza di Cristo. Vi sono sofferenze che non vengono dette né confidate. Ed è importantissimo dal lato umano sapere che qualcuno conosca i nostri buoni segreti. Forse nel XXI secolo si è perso di vista questo aspetto segreto della vita cristiana, ma occorre recuperarlo. Di recente ho fatto presente a dei fratelli il mio imbarazzo quando ci sono le feste dei compleanni o anniversari, nei quali, davanti a tutti, si mostrano i regali ricevuti. Da un certo punto di vista tutto sembra innocuo, ma dove mettiamo l'ordine di Gesù che la mano sinistra non deve sapere quella che fa la destra quando fa del bene. MT 6, 3. Come conciliare gli applausi di pubblico e relativi commenti con ciò che è segreto. Un'abitudine sociale non rende lecito ciò che non è. Il segreto è l'anima del cristianesimo, e questo perché il credente non può fare altro che tenere gli occhi fissi sul suo Dio, quel Dio che ha promesso di premiare ogni gesto nascosto compiuto con amore e verità. Nel discorso fatto sul monte, riportato nel Vangelo di Matteo, Gesù mise in evidenza la necessità di agire di nascosto in tre settori importanti, quando si compie un'opera caritatevole, MT 6.34, quando si prega, MT 6.6, e quando si compie un digiuno, MT 6.1718. E solo così si avrà una ricompensa, da Dio e non dagli uomini. Così, se è vero che l'anima del cristianesimo è il segreto, è anche vero che la verità palese del cristianesimo è che Dio ricompensa tutti coloro che operano secondo la sua volontà. Nella lettera agli Ebrei troviamo scritto che chi ricerca Dio con fede è ricompensato, Ebrei 11.6, come non è dimenticata davanti a Dio l'opera e la fatica dell'amore di chi si adopera per l'avanzamento del regno di Cristo, Ebrei 6.10. Perché sta scritto che non c'è è nulla di nascosto che non sia manifestato, né nulla di segreto che non sia messo in evidenza. Marco 4.22. Perciò la chiesa di Smirne, come ogni altra chiesa che ha lo stesso comportamento, meno non deve temere di essere dimenticata. Ma le sue opere, la sua fatica, le sue sofferenze sono del continuo tenute presente davanti a Dio, poiché tutto viene registrato in un libro, ML 3.16. Proprio per questo Gesù rivolge alla chiesa di Smirne l'incoraggiamento a rimanere fedele fino alla morte, a non temere ciò che si avrà da soffrire, perché c'è, è la promessa della corona della vita. La sofferenza si può vincere solo avendo una ragione più valida della sofferenza stessa, e non può esserci ragione più valida se non qualcosa che sia duraturo, tanto duraturo da poter essere ricevuto anche dopo la morte. Come può un incredulo sopportare in modo giusto la sofferenza? Me lo chiedo, perché se io non avessi la fede di oggi, come potrei essere vittorioso sul male e portare avanti con gioia il mio compito di essere un testimone di Cristo? Certo, anche in altre religioni i credenti sono zelanti nel portare il loro messaggio, ma la mia fede è riposta in Cristo Gesù, l'unico uomo che è risorto per confermare la validità delle sue affermazioni. Sono forse insensato con una simile fede? Sono dunque anch'io partecipe della fede e delle promesse dei credenti di Smirne, perché ad aver parlato è stato colui che è il primo e l'ultimo, colui che fu morto e tornò in vita. Fu morto, la mai relazione e con il Dio vivente. L'ultima chiesa che prendiamo in esame è quella di Filadelfia. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide. Colui che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza. Anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io, lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. 3.7.13. Molte sono le promesse fatte da Gesù e anche le parole di incoraggiamento, ma a me piace tenere presente le prime parole che fanno da introduzione a tutto il resto e che possono benissimo essere il tema di chiusura di queste riflessioni. Queste cose dice colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Se teniamo presente che tutti abbiamo bisogno di spostarci perché la staticità o l'immutabilità sono sinonimi di morte, se Cristo chiude o impedisce una qualsiasi azione e nessuno può cambiare tale circostanza, a dir poco vengono i brividi. Ti rendi conto della tua impotenza, della tua nullità, per cui non resta che un ultimo disperato abbandono nelle mani di Dio Padre. Se Gesù ha dichiarato una chiesa morta, questa è morta. Se l'ha trovata fedele, questa è fedele. Questo è il punto. Se Gesù ha promesso a chi vince cose stupendamente impensabili, queste si realizzeranno. Se ha promesso ira e vendetta, anche queste si avvereranno. E nessuno, ma proprio nessuno, può cambiare tale situazione. Ecco cosa devono produrre le rimostranze di Gesù alle sette chiese. Non importa quello che tu pensi, né quale sia la tua convinzione, ma solo quello che Gesù ha detto. Il Tippesion, che cosa saggia riflettere e prendere sul serio tutte le parole di Gesù, in lui sta la nostra sorte, bella o brutta che sia. Sta a noi decidere quale accettare. Settembre 2009. Ellero,